2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Signore e signori, ecco a voi la puntata del 21 e 22 settembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi ci occuperemo del mercato dei media e dell'intrattenimento in Italia per capire come vanno le cose, ma come andranno nei prossimi anni. Ci occuperemo anche di neutralità della rete, un tema estremamente importante e interessante. Bisogna capire due o tre punti di riferimento e dopodiché uno può partecipare tranquillamente al dibattito. Tra poco parleremo invece di smartphone e fotocamere. Quanto sono buoni gli smartphone per fare una buona fotografia? Ma prima due notizie che riguardano la sicurezza. Continua a sostenere, ma fortunatamente non sono il solo a dirlo, molti esperti sostengono che il prossimo grande tema per le nazioni, gli stati, ma soprattutto le aziende, è quello della sicurezza. Bisogna investire, ma non solo in infrastrutture tecnologiche, in tecnologie di sicurezza, ma anche sul personale, sulla cultura della sicurezza. Ne abbiamo parlato altre volte, sicuramente ne torneremo a parlare, perché è in corso il più grande furto della storia. Stiamo parlando di furto di proprietà intellettuale che viene rubato da tutto il mondo, dove esiste, quindi i paesi occidentali, le aziende dei paesi occidentali sono il primo target. Allora, la notizia di questa settimana, una delle ultime notizie di questa settimana, arriva dagli Stati Uniti, è stata pubblicata dal New York Times. Una società americana che si occupa di security, la FireEye, occhio di fuoco, ha osservato per circa due anni l'attività di alcuni hackers dell'esercito cinese, o meglio di un gruppo che comunque collabora con l'esercito cinese, che ha base a Shanghai. Questo gruppo ha tentato di bucare e compromettere i sistemi di 20 aziende che lavorano con l'esercito americano nello sviluppo di armamenti. L'obiettivo era quello di rubare informazioni e dettagli, soprattutto sui droni militari. Naturalmente c'è una forte ricerca, ne abbiamo parlato anche nel 2024, recentemente c'è una forte ricerca su questo tipo di strumenti che vengono sempre più utilizzati dagli Stati Uniti e da Israele, che sono i due paesi all'avanguardia nell'uso di droni militari. C'è una forte ricerca, da poco anche i cinesi li stanno utilizzando e forse alcuni di voi sapranno che esiste, è stato proposto dalle principali aziende che si occupano di armamenti, di aerospazio in Europa, c'è anche l'italiana Finmeccanica, è stata fatta una proposta, c'è un prototipo di un drone militare da costruire nei prossimi anni per rimanere al passo delle tecnologie degli Stati Uniti e di Israele in primis, ma a questo punto anche dei cinesi. Una proposta che è stata fatta ai governi, che dovranno prima o poi prendere una decisione se fare o non fare un drone militare anche in Europa. Poi sul tema droni abbiamo parlato e torneremo a parlare, perché questo è un grande mega trend. Ci sono anche molti utilizzi civili dei droni, con macchine naturalmente meno complesse, meno sofisticate, anche più piccole, ma comunque stiamo parlando di macchine che non sono i modellini da 500 o 1000 euro, stiamo parlando di macchine da 15-20 mila euro, 50 mila euro, che si possono utilizzare in molti ambiti, anche nella sorveglianza. Sicuramente le polizie anche in Europa cominceranno a utilizzare droni. Bene, di questo parleremo. Se avete dei suggerimenti, delle domande, delle curiosità, scriveteci a 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook nella pagina di 2024 e anche su Twitter. Il mio account Twitter è semplicissimo, @Pagliarini, quindi chiocciolina e che sta per Enrico, _, quindi linetta bassa, Pagliarini. Altra notizia che riguarda la sicurezza arriva dalla Gran Bretagna. 8 uomini sono stati arrestati per un attacco informatico contro una filiale della Barclays a Londra, che aveva portato al furto di 1,3 milioni di sterline. furto avvenuto in aprile. La banda è formata da uomini di età compresa tra i 24 e i 47 anni con, dice la polizia, notevoli capacità tecniche. La Barclays ha recuperato una parte significativa dei soldi rubati. Gli esperti di sicurezza dicono, stanno dicendo negli ultimi mesi, che uno dei trend in atto più significativi negli attacchi alle banche è la dimensione degli obiettivi, cioè invece di attaccare grandi sistemi si punta ai sistemi delle filiali e si cerca di inserirsi proprio lì, a volte anche con strumenti fisici, cioè si trova un complice nella banca, in una filiale della banca, che installa un aggeggio all'interno della rete e questo strumento serve per infilarsi nella rete. Quindi qua c'è ben poca tecnologia, cioè basta corrompere o comunque riuscire a infilarsi fisicamente tramite un complice o in altro modo nella banca e il gioco è quasi fatto, non sempre fatto. Però la polizia esiste, la polizia in tutto il mondo, anche in Italia, ha oramai delle divisioni che si occupano di crimini informatici e i risultati arrivano. Adesso abbiamo altre notizie della settimana. Digital News. La prima notizia riguarda il mondo del videogioco. Grand Theft Auto, il videogioco arrivato alla quinta serie, ha incassato, pensate, 800 milioni di dollari nel primo giorno di consegna, il 17 settembre, e finora, quindi nei giorni successivi, fino a 1 miliardo di dollari. Sono circa 14 milioni le copie vendute, un record per il mondo del videogame e soprattutto per il produttore Rockstar Game e il publisher Take-Two. Il gioco è disponibile per PlayStation 3 e Xbox 360. Se pensiamo che lo sviluppo del videogame è costato 260 milioni di dollari, beh, i margini ci sono tutti, un investimento più che ripagato. Digital News. Vanno meno bene i conti di BlackBerry, che dopo la trimestrale e una perdita vicina al miliardo di dollari ha deciso di tagliare 4.500 posti di lavoro nel mondo, circa il 35% del totale. BlackBerry non riesce a fare decollare il nuovo sistema operativo BlackBerry 10 ed è schiacciata soprattutto dalla concorrenza degli smartphone di Apple e tutti quelli con sistema operativo Android. Pensate che questi due ecosistemi fanno il 93% del mercato mondiale. Digital News. BlackBerry continua tuttavia ad avere tecnologie di qualità e soprattutto sul fronte email è ancora oggi la migliore piattaforma in termini di sicurezza. Le email viaggiano cifrate su infrastrutture interne all'azienda e anche la compressione rende più veloce la consegna del messaggio di posta elettronica. Naturalmente stiamo parlando di infrastrutture aziendali, ma ci sono mille altri fattori, soprattutto commerciali, che controbilanciano i vantaggi in termini di qualità e di tecnologia che ho citato poco fa. Oramai c'è anche un'altra componente molto forte che va sotto il nome di Bring Your Own Device, che fa parte del più ampio fenomeno della consumerizzazione, cioè molti consumatori che vogliono utilizzare anche in azienda strumenti che utilizzano nella loro vita privata. Quindi sicuramente in questo caso tutti gli smartphone con sistema operativo Android e tutti gli iPhone sono una forte pressione nei confronti delle aziende che quindi molto spesso adottano questi dispositivi. C'è anche da dire purtroppo che molto spesso la sicurezza viene vista come un costo e non come un investimento, quindi in tempi di crisi economica vengono ridotti gli investimenti in termini di sicurezza, quindi questa prerogativa di BlackBerry viene sicuramente meno. Altre due notizie che riguardano BlackBerry: l'annuncio di un nuovo terminale in arrivo per la fine dell'anno, lo Z30, che avrà uno schermo da 5 pollici, e poi che il servizio di instant messaging, di messaggistica in tempo reale su mobile, cioè il famoso BBM, sarà disponibile gratuitamente per la prima volta anche per altri sistemi operativi da questo fine settimana, sia per Android che per iPhone. Digital News. Google ha aperto anche in Italia la sezione device del Google Play. L'Italia era finora uno tra i pochi grandi mercati dove Google non vendeva terminali online. L'unico disponibile al momento è il nuovo Nexus 7, esaurito invece il Nexus 4 in attesa dell'uscita nelle prossime settimane del Nexus 5. Digital News. L'applicazione Quick Office, che permette di modificare documenti creati anche con Office di Microsoft, creati magari su PC e li permette di modificare su tablet e smartphone, è ora disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS. Quick Office è stata acquistata un anno fa da Google. Digital News. due persone che hanno contribuito alla crescita della tecnologia e hanno sfruttato la tecnologia per costruire business globali, sono morte questa settimana. Sono due giapponesi, si tratta di Eiji Toyoda, l'ingegnere meccanico cugino del fondatore Kichiro Toyoda, fondatore della Toyota. È morto a 100 anni e ha dato un contributo determinante alla diffusione del marchio Toyota nel mondo. Altra scomparsa è quella a 85 anni di Hiroshi Yamauchi, che per 53 anni ha guidato la Nintendo. Yamauchi ha guidato la Nintendo dal 1949 fino al 2002, facendola diventare un colosso del videogame da un piccolo produttore di figurine. Saluto Gianfranco Giardina, il nostro primo ospite in questa puntata. Gianfranco Giardina è il direttore responsabile del magazine digitale dday.it con una squadra di esperti che si occupano di elettronica di consumo. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora Gianfranco, alcuni nostri ascoltatori ci hanno sollecitato e ci hanno detto: perché non parlate di smartphone e fotocamere? Perché alcuni produttori recentemente, lo hanno fatto da tempo, ma negli ultimi mesi hanno accelerato verso questa funzione, stanno puntando molto sulla fotocamera dello smartphone. In alcuni casi, lo avete fatto anche voi su D-Day, ci si può domandare: questo è uno smartphone o una fotocamera? Sì, in realtà ancora più che le case a puntare sulla fotocamera, di fatto sono gli smartphone che puntano quasi autonomamente alla fotocamera, cioè stanno sostituendo tutte le fotocamere compatte, cioè gli utenti hanno deciso che è molto più facile fare foto con lo smartphone, magari con qualche compromesso di qualità, quantomeno se non si hanno degli smartphone adeguati, perché è molto comodo. Lo smartphone ce l'abbiamo sempre in tasca, non c'è bisogno di ricordarsi, la memoria ormai è largamente disponibile, lo smartphone è collegato a internet, quindi la foto è immediatamente condivisibile sui social. Ecco che si può salvare nel cloud. Ecco che sono proprio le fotocamere compatte a soffrire maggiormente l'aggressione degli smartphone, perdendo oramai anno su anno delle quote di mercato, cioè diciamo giro d'affari fatturato in maniera molto importante a due cifre, e spesso per le fotocamere compatte, per il segmento proprio delle fotocamere compatte, quasi sul piede del 30% anno su anno. Quindi il mercato ci sta dicendo che c'è un effetto sostituzione molto forte tra le fotocamere di fascia medio-bassa, quindi le compatte, cioè cose da 100 euro, 150 euro, cose del genere, con gli smartphone. Allora, questo dice il mercato, però se guardiamo la qualità, gli smartphone di oggi, almeno quelli di fascia medio-alta, sono sufficienti per, qualitativamente parlando, sostituire le fotocamere? Al di là di quello che abbiamo detto, la comodità, eccetera, eccetera. Assolutamente no, nella media. Tant'è vero che appunto per questo spiccano alcune offerte che proprio nella parte della fotocamera fanno almeno uno degli elementi di differenziazione, se non addirittura l'elemento chiave di differenziazione. Tutti gli smartphone entry level e medio di gamma fanno fotografie. Non parliamo però di qualità, fanno fotografie che vanno proprio bene per i social e poco più. Non sostituiscono, non le consiglierei a nessuno per sostituire una fotocamera vera e propria per tutti i propri ricordi, per i compleanni dei figli, per le vacanze. Ecco, perché poi anche la compatta comunque è meglio dello smartphone. Dello smartphone medio, sì, assolutamente sì. Poi ci sono alcuni smartphone, come dicevamo, hanno fatto della qualità fotografica e della risoluzione uno dei propri aspetti fondamentali, con un limite, quasi sempre se non sempre, che è quello di non avere un'ottica tele. Cioè non possono fare grandi ingrandimenti, non fanno fotografie ravvicinate da lontano, tanto per intenderci, quindi e questo dipende da un fatto prettamente morfologico. Per fare un teleobiettivo serve, anche se il sensore è piccolo e quindi se il progetto ottico è piccolo, serve comunque avere un'ottica spessa, ormai gli smartphone sono spessi pochi millimetri addirittura, figurarsi come ci può essere all'interno dello smartphone un'ottica che possa fare da teleobiettivo. Sicuramente non c'è un'ottica zoom, perché anche lo zoom, che richiede il movimento dell'ottica, richiederebbe una profondità più alta. Quindi il limite vero degli smartphone in questo momento, per cui le fotocamere hanno ancora ragione di esistere anche nella fascia medio-bassa, è il fatto che non hanno uno zoom e non hanno un teleobiettivo. Lo zoom che facciamo con zoom digitale, che però è tutta un'altra cosa. Lo zoom che facciamo con gli smartphone è uno zoom digitale, quindi facciamo un ingrandimento digitale delle immagini, o meglio andiamo ad usare solo una porzione del sensore per fare la nostra fotografia, il che significa che se è poco questo zoom, l'effetto non si vede, ma se andiamo a spingere pesantemente sull'ingrandimento, è chiaramente l'immagine si sgrana e basta. Sì. Quindi diciamo, se io faccio fotografie con anche uno smartphone di buona qualità e poi magari me la vado a vedere su una TV in alta definizione, il risultato forse non è che mi soddisfa molto. Beh, la TV in alta definizione è 2 megapixel, quindi fino a 2 megapixel in teoria dovrebbe andare tutto bene, ma il problema non è solo legato ai megapixel del sensore o anche ai megapixel che usiamo del sensore, quanto alle lenti. E lì un po' casca l'asino, perché quando noi abbiamo un sensore comunque molto piccolo, perché è integrato nello smartphone, con una lente che è molto piccola, lente che spesso è di plastica e non di vetro, o quasi sempre è di plastica, diciamo così, plastiche di altissima qualità, ma plastiche, è chiaro che la risolvenza, cioè la capacità di restituirmi tutta quella risoluzione in quel pochissimo spazio di quel vetro non è così garantita. Di conseguenza io ho un'immagine magari anche a 10 megapixel, magari anche a 20 megapixel, ma il dettaglio reale non sempre, ma in moltissimi casi è molto più basso. Quindi è vero che io faccio un ingrandimento di quella foto facendo lo zoom e sono ancora sopra i 2 megapixel. La guardo su un TV Full HD che è 2 megapixel e non mi piace. E il motivo sta proprio qui. E dobbiamo distinguere dai pixel di cui è composta l'immagine fisicamente alla qualità dell'immagine stessa, che potrebbe non restituire tutta quella risoluzione. Sì. Questo discorso vale anche per i top di gamma o comunque quegli smartphone che fanno della fotocamera il loro punto di forza. Io ho visto appunto, voi in redazione a D-Day avete fatto una prova del Lumia 1020, che è questo nuovo smartphone che è specializzato nella fotografia, insomma c'è molti particolari proprio per chi fa foto. Poi anche un terminale di Sony avete provato. Anche lo stesso nuovo iPhone, che in Italia ancora non è arrivato, insomma ha migliorato la fotocamera. Anche su questi top di gamma vale lo stesso discorso? Vale molto meno, siamo veramente stupefatti delle volte delle immagini che riescono a catturare questi smartphone. Per esempio tu hai citato il Lumia 1020, è una, mi dovrebbe dire, una fotocamera che telefona, nel senso che, che ha un sensore da 41 megapixel, che addirittura è una risoluzione che non troviamo neanche sulle reflex, così alta, no? E il motivo per cui è una risoluzione così alta non è in realtà per catturare immagini da 41 megapixel da uno smartphone, con un'ottica di uno smartphone, che potrebbe essere, diciamo, un eccesso non interessante, ma proprio per fare quello che dicevamo prima, fare uno zoom digitale, e quindi permette di fare immagini con un finto tele, mantenendo pur sempre una risoluzione decorosa. Usa soltanto la parte centrale dello schermo per fare di fatto l'ingrandimento, fino a immagini da 5 megapixel, quindi riduce questi 41 a 5 megapixel. E addirittura si può anche decidere di scattare tutti i 41 megapixel e in un secondo tempo andare a riquadrare, quindi andare a ingrandire il pezzo che si vuole, fare la zoomata non mentre si scatta ma dopo, tanto per intenderci, e andare a riquadrare la parte di 5 megapixel che si vuole conservare. Questo è uno stratagemma per avere un teleobiettivo senza avercelo, cosa che ovviamente resta comunque il limite degli smartphone. In altri casi abbiamo visto per esempio col Sony Z1 una bellissima fotocamera da 20 megapixel, sempre su un sensore comunque piccolo. Ecco, il vero limite che allora salta fuori è che su un sensore piccolo così risoluto la sensibilità alle basse luci non è così entusiasmante. Una fotocamera dedicata, pensata per questo, con delle lenti più luminose, sicuramente con un sensore più grande sicuramente si comporta meglio. Quindi magari cosa succede? In piena luce fa delle foto fantastiche, ma magari con poca luce tende a fare il mosso perché scatta a tempi troppo alti e diciamo così via. E la bella fotocamera in realtà si vede in condizioni di luce difficili, perché in condizioni di luci facili devo dire che quasi tutti gli smartphone di fascia alta fanno delle fotografie eccellenti. Se io devo fotografare una persona in pieno sole, in pieno giorno, più o meno. Diciamo che anche uno smartphone fa foto eccellenti. Non è così vero se la luce incomincia a diventare un pochino più complessa. E purtroppo, proprio perché non stiamo parlando di una fotografia amatoriale, non professionale, anzi direi in alcuni casi occasionale, non abbiamo le luci di studio, non abbiamo delle condizioni ideali, abbiamo delle condizioni spesso appena appena accettabili. Ecco, in questo caso lo smartphone rischia veramente di mostrare un po' il fianco, malgrado ciò viene continuamente usato. Io quest'estate, che è appena finita, in vacanza, ho visto tantissima gente fotografare in vacanza con lo smartphone, addirittura col tablet, che è una cosa abbastanza singolare. Ma Lo stesso discorso vale per i tablet, cioè la qualità delle fotocamere è paragonabile a quella degli smartphone mediamente? Sì, assolutamente sì. Quello che guida la qualità della fotocamera in questo caso è lo spessore del device. Se io avessi un device più spesso, potrei integrare un sensore più grande e un'ottica che di conseguenza diventa più grande. In questo caso, se si vogliono avere device sottili, la fotocamera ne viene necessariamente sacrificata. Senti, consigliamo cosa quindi? Perché effettivamente il fattore comodità è micidiale in questo caso, perché uno ha lo smartphone con sé tutto il giorno, è talmente comodo fare la foto con lo smartphone, per non citare poi quello che tu dicevi prima, cioè la possibilità di condividerla, spedirla via mail, di archiviarla in the cloud subito, velocemente. Quindi cosa succede poi sul mercato? Cioè, dobbiamo comunque consigliare alla gente di comprarsi la propria fotocamera compatta, comoda da tenersi in tasca, perché prima o poi ce ne viene bisogno e comunque per fare delle belle foto quella è necessaria? O, come alcuni dicono, io per fare le foto normali uso lo smartphone, nella mia valigia tengo sempre una reflex, però la reflex pesa. Costa anche, diciamo, considerando poi le ottiche che devi metterci sopra, costa soldi. Sì, questo è vero. Dividiamo il mondo in due in maniera un pochino drastica, forse evidentemente poi ci sono mille sfumature, ma i fotoamatori e i fotografi assolutamente occasionali. Le fotografie assolutamente occasionali si fanno bastare felicemente lo smartphone, non hanno a questo punto direi bisogno di una compatta, ed è il motivo per cui le compatte si vendono meno. E posso andare avanti così. Di certo, quando poi stamperanno le foto, le verranno su computer o su TV, una risoluzione più alta, invidieranno magari la fotografia dell'amico fatta anche nella stessa situazione, nella stessa occasione, fatta con una fotocamera vera e propria, probabilmente anche con una reflex. Le reflex non stanno soffrendo la crisi di mercato, funzionano ancora molto bene, piacciono alle persone. È come se il mercato avesse in qualche modo sancito che per gli utilizzi generici va bene il device mobile, lo smartphone, il tablet, e invece il fotoamatore si dedica a una reflex, che non vuol dire che abbia sempre la reflex, farà foto anche col suo smartphone, ma si porta dietro la reflex per le occasioni importanti che contano, per le vacanze, eccetera, eccetera. Perché la qualità, ahimè, va detto, è ancora largamente differente, soprattutto nelle situazioni difficili, nelle basse luci, nel volere degli alcuni effetti di sfocato, nel controllo sulla messa a fuoco, ancora gli smartphone. E non so se ci vorrà un'innovazione anche sul fronte ottico, non soltanto sul fronte dei sensori, non basta aggiungere risoluzione, ci vuole che vengano inventate, ammesso che sia possibile, delle lenti particolarmente compatte e particolarmente performanti. Nel passaggio dalla pellicola al digitale, anche con le fotocamere reflex e con le fotocamere compatte, uno dei limiti fu proprio la qualità delle lenti. La qualità delle lenti, che nel mondo chimico non era così importante perché la pellicola aveva sì una risoluzione teorica molto alta, ma poi alla fine sfocava un po' l'immagine di per sé stesso. Ecco, col digitale, che è molto più nitido, volendo, soprattutto con l'aumento della risoluzione dei sensori, alcune ottiche hanno cominciato a mostrare il fianco. Andavano bene sui 5 megapixel, ma passati ai 10 o ai 15, ecco che, non, che sì, praticamente sì, non andavano più bene. È chiaro che uno smartphone così piccolo non offre, non potrà mai offrire, dico io, ma poi magari vengo smentito dalla tecnologia, ma non offre al momento sicuramente una qualità eccellente, anche se va detto che appunto il Lumia che abbiamo provato, lo stesso Sony Z1, hanno offerto delle una qualità e un dettaglio sì, sì, veramente insperato. Lo stesso iPhone comunque fa ottime, ottime foto. Però se così fosse, Sony non si sarebbe forse ingegnata per inventare qualcos'altro. Infatti all'IFA di Berlino adesso abbiamo visto un apparecchio che di fatto è un apparecchio fotografico, è una fotocamera addizionale, cioè da aggiungere a uno smartphone qualsiasi, sia che sia iPhone, sia che sia Android, che non ha un display, è soltanto l'ottica, ovviamente dentro c'è anche il sensore, si aggancia a qualsiasi smartphone oppure si può anche tenere in mano e tramite un'app opportuna permette di scattare da smartphone, vedendo dal display dello smartphone. Sì, questo apparecchio è una specie di obiettivo, un barilotto, ha un display. Si utilizza il display dello smartphone, si collega in wifi e si scatta con quello. Ovviamente quest'ottica è un'ottica zoom tele, certo, con un zoom 10x, che quindi arriva a un ingrandimento molto alto, cosa che gli smartphone non faranno mai. Sì. Cioè Sony ha voluto dire, con questo oggetto ti offro sullo smartphone quello che lo smartphone non farà mai. Non ha, certo. O comunque che per adesso sì, non farà. Però a questo punto mi chiedo, ma vabbè, allora comprati una bella fotocamera compatta, adesso ci sono anche delle compatte con sistema operativo Android che si collegano in wifi e che quindi offrono alcune delle caratteristiche tipiche degli smartphone, cioè la connettività eccetera eccetera. È un'idea, una soluzione. Questo oggetto di Sony, quindi la QX10 e la QX100, hanno il vantaggio che essendo già collegati in wifi con lo smartphone scaricano immediatamente una immagine da 2 megapixel sullo smartphone, permettendo immediatamente la condivisione sui social, e tengono sulla propria memoria invece l'immagine a 18 megapixel a risoluzione piena. In questo modo hai tutti i vantaggi della condivisibilità immediata tramite smartphone, con i vantaggi di scattare foto a 18 megapixel e di alta qualità. Senti, ti faccio una domanda sui software o le app che si possono utilizzare per correggere le foto. Allora, visto che gli smartphone appunto in alcune condizioni sono veramente terribili, quindi non permettono di fare delle foto bellissime, molto spesso si fa la foto, ci si rende conto che i colori non sono giusti, c'è poca luce eccetera eccetera, e si utilizza un'applicazione oppure un software per fare le correzioni. Allora, prima di tutto, sempre pensando alla qualità, è una cosa corretta da fare? Ci sono altri modi? Ci vuoi consigliare un software piuttosto che un altro? Ma diciamo che il software principe da questo punto di vista è sempre stato Instagram, che è diventato un grande classico, oramai ci sono addirittura le grandi community di utenti Instagram. Che cosa fa Instagram, di fatto, l'applicazione Instagram, prima di permettere il caricamento della foto sul social network? Beh, permette di trattare questa immagine, io dico rovinandola d'arte, in modo tale che il difetto nativo dell'immagine non si veda. Applica dei filtri di solarizzazione, dei filtri di viraggio anomalo dei colori, innaturale dei colori, applica la vignettatura, che significa l'oscurimento ai bordi dell'immagine. Attenzione, la vignettatura per anni è stato il nemico numero uno del fotografo, cioè si andava a cercare l'ottica che avesse la minor vignettatura possibile, perché la vignettatura è un difetto delle ottiche. Adesso noi prendiamo le foto con gli smartphone e applichiamo la vignettatura, perché è nata questa estetica finto, permettetemi, vintage, un po' grunge, un po' rovinata, no? Di addirittura applichiamo dei difetti della pellicola alla foto digitale per renderla esteticamente più interessante. È vero che in questo modo è dimostrato delle brutte foto digitali diventano delle piacevoli immagini da vedere, diventano più seducenti, diventano più particolari. Sì, sì, sì. Ecco, però ricordiamoci che è un modo per, in realtà, per rovinare l'immagine spesso e volentieri, perché i colori non sono più quelli della realtà, la vignettatura è naturale. Però ci sono tante app che invece permettono di che ne so, avere una luce più brillante. Sì, delle app che permettono di correggere l'immagine, diciamo di Photoshop in miniatura, che permettono di correggere luminosità, contrasto, aggiungere rumore, levarne un po', aumentare il dettaglio. Quando si esagera in questi parametri, questo vale sia su Photoshop, su PC, che su queste app, quando si esagera con queste correzioni poi si finisce anche lì per rovinare l'immagine. Vi ho sempre ricordato che dal punto di vista dell'estetica fotografica, quantomeno classica, tutte le operazioni di fotoritocco sono validissime e ottime finché non svelano la loro esistenza, cioè finché non si vede che sono state fotoritoccate. Certo. Se si vede che sono state fotoritoccate, a quel punto è evidente che ci si è fatti prendere un po' troppo la mano. È tipico degli effetti HDR, che adesso si usano molto, quindi quelli che pompano la gamma dinamica dell'immagine facendo diversi scatti sovrapposti o anche solo su uno scatto solo, diventano dei colori brillantissimi, dei toni, dei mezzi toni assolutamente quasi impossibili da catturare, una luce molto fantasy, permettetemi di usare questo termine, e però alcune volte questa tecnica è talmente evidente e svelata che quasi diventa un pasticcio l'immagine. Però quindi bisogna essere un po' cauti e non farsi prendere troppo la mano dal gioco, a meno che non si voglia fare Andy Warhol, ma di Andy Warhol ce n'è stato uno, cioè poi bisogna avere... Mi confermi che i grandi fotografi oggi fanno tutti fotoritocco digitale sulle foto, però poi sono bravi e quindi non si fanno prendere la mano? Assolutamente sì, tutte le foto vengono ritoccate, ovviamente con la mano giusta e con molta cautela. Non ho ancora trovato un effetto di ritocco automatico è automatizzato che funzioni bene, o comunque funzioni bene in tutte le situazioni. E c'è di bello che è come avere la camera oscura di una volta, chi ha qualche capello bianco se lo ricorda e quanto tempo gli appassionati passavano in camera oscura per provare uno sviluppo diverso, un po' più chiaro, un po' più scuro. Ecco, qui si ha la camera chiara su PC o su tablet, per esempio. Ecco, lo smartphone forse non lo considererei per la dimensione del display, ecco, ma su tablet sicuramente sì. E in cui si possono fare mille tentativi. Ovviamente quando si hanno mille parametri di libertà, mille tentativi, nessun costo per sviluppare infinite volte la stessa foto, ecco che bisogna avere un senso estetico fotografico molto spiccato per sapere dove andare, perché se i parametri sono talmente tanti che uno su una foto sola potrebbe starci anche tutto il giorno facendone mille versioni senza riuscire a decidersi quale sia la migliore. Esatto, la fotografia è un po' come il suono, io capisco un po' più di suono rispetto a molto di più di suono rispetto alla fotografia, le cose sono molto complicate, allora se non siete molto esperti fate come faccio io, che o usate una fotocamera compatta mettendola in automatico, oppure usate lo smartphone e vi accontentate di quello che riuscite a fare. Gianfranco, grazie, buon lavoro e buona fotografia in questo fine settimana, che è l'ultimo d'estate. Assolutamente sì, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra le notizie interessanti di questa settimana che riguardano l'ecosistema dell'elettronica di consumo che commentiamo sempre a 2024, ce n'è una pubblicata dal Financial Times. Allora, l'ex amministratore delegato di Nokia, Stephen Elop, riceverà, pensate, attenzione, 18,8 milioni di euro, quindi facciamo 19 milioni di euro per il suo passaggio alla Microsoft. Sapete che Microsoft ha acquistato la divisione di telefonia mobile di Nokia, che invece continua in Finlandia a produrre antenne, apparati, infrastrutture per la telefonia mobile, ma la parte dei terminali, i cosiddetti devices, è stata comprata da Microsoft. A questo punto Stephen Elop lascia la guida di Nokia, però rientrerà dentro a Microsoft e si occuperà di fatto dello stesso business, quindi diciamo esce da una parte e rientra dall'altra con 19 milioni di euro in tasca. Allora, tenete conto che Elop aveva ricevuto 3 anni fa, quando era uscito da Microsoft per andare a dirigere Nokia, 6,2 milioni di dollari. Quindi 19 più 6 fa 25, giusto? Perfetto. Allora, naturalmente, soprattutto in Finlandia, ma non solo in Finlandia, c'è chi pensa che ci sia stato un, se non proprio un complotto, comunque il tutto sia stato architettato, e Ilop, quando è uscito da Microsoft, sia uscito 3 anni fa proprio con questo mandato: tu combina le cose tali per cui fra qualche anno ci compriamo Nokia ad un prezzo molto basso. In effetti 5 rotti miliardi che è stata pagata Nokia sono una cifra piuttosto ridicola per un gruppo che fino a qualche anno fa era il numero uno al mondo e ancora oggi per vendita di terminali mobili è il secondo dopo Samsung. Quindi tutti quelli che gridano al complotto, beh, hanno un ulteriore spunto di riflessione. Diciamo che un pomodoro, se fossi un finlandese, a Ilop glielo tirerei, Allora, parliamo di neutralità della rete, un tema estremamente importante. Vi piacerebbe, facciamo questa domanda giusto per far capire che cosa, secondo la visione di alcuni, potrebbe succedere. Allora, vi piacerebbe dover pagare un canone aggiuntivo per vedere un video di un grosso portale, che ne so, YouTube, facciamo un puro esempio, Io ho il mio abbonamento internet, ma domani il mio gestore potrebbe dirmi: beh, se vuoi vedere in modo fluido, in alta definizione, YouTube, ma è un puro esempio, devi pagare qualche cosa in più. Allora, questo è quello che immaginano coloro che temono per possibili violazioni della neutralità della rete internet. Allora, oggi tutto il traffico che passa sulla rete va alla stessa velocità, più o meno. Le società di telecomunicazioni possono sì gestire il traffico per garantire il generale funzionamento di internet, ma ci sono dei limiti, non possono discriminare un contenuto, filtrarlo, accelerarlo. Poi queste cose succedono soprattutto in ambito business. Non c'è una specifica legge che vieti tutto ciò, ma tradizionalmente nella rete internet questa è una prassi. Allora, una violazione potrebbe fare sollevare qualche dubbio al legislatore o alle autorità di controllo, quindi nessuna legge lo vieta, ma per il momento praticamente nessun operatore sta facendo questo, sta creando dei servizi premium a pagamento ulteriore rispetto all'abbonamento base, perché qualcuno potrebbe sollevare qualche dubbio. Allora, in Olanda e in Svezia i parlamenti si sono espressi in tal senso, quindi hanno fatto proprio delle leggi che garantiscono la neutralità della rete. A questo punto il dibattito si amplia, perché la bozza di direttiva della Commissione europea fa invece esplicito riferimento alla possibilità di creare servizi premium, cioè di qualità e pagati dagli utenti. Stiamo parlando prevalentemente di servizi al consumatore finale, perché nel mondo business questi servizi esistono già da tempo, vengono pagati profumatamente dalle aziende, quindi nessun problema. Ma tutto ciò è giusto o sbagliato? Ci sono naturalmente varie tesi. Noi abbiamo raccolta una molto interessante, molto energica, questa settimana dal professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna strategia aziendale alla Bocconi di Milano. Distinguiamo e chiariamo: la neutralità della rete non ha alcuna messa in discussione se la traduciamo come non discriminazione, ovvero del diritto di qualsiasi informazione di circolare, okay? È cosa molto diversa dalla equivalence of output, ovvero tutti viaggiano alla stessa maniera. Se c'è traffico in autostrada, noi dobbiamo essere sicuri che l'ambulanza possa avere in quel caso un passaggio preferenziale. In questo caso qua stiamo parlando di poter garantire livelli di servizio a fronte di una specifica domanda, o pubblica, applicazioni sanitarie, o privata, servizi in alta definizione o ad alta fedeltà. In questo secondo caso non stiamo parlando di violazione della neutralità, stiamo semplicemente parlando di consentire quella che si chiama la differenziazione del servizio a fronte di una domanda. E non è vero che questo discrimini l'innovazione, al contrario, consente a imprenditori innovativi di identificare nicchie di mercato al quale dare una risposta. Certo, tutto questo deve superare, fammi dire, il dibattito ideologico, un po' questa guerra di religione, che non ha senso, perché è chiaro che internet è un bene pubblico. Io sono il primo a dire che internet è un'istituzione, deve essere inclusiva, quindi quella non discriminazione non va assolutamente messa in discussione. Tutti devono poter scambiare senza filtri e senza discriminazioni da parte né degli operatori né dello Stato le loro informazioni. Questo ha garantito lo straordinario sviluppo di internet. Ma fermarci a quest'internet in cui tutti viaggiamo sullo stesso trenino alla stessa velocità è un delitto dal punto di vista delle opportunità imprenditoriali. Quindi una ricerca di tipo, diciamo, tecnologico deve consentire spazi di differenziazione di servizio, sempre sotto l'occhio vigile del regolatore, che deve evitare che invece si, come dire, si utilizzi la discriminazione a fini non concordati. C'è chi dice però che rendendo possibile un mercato dove il consumatore finale o le aziende pagando possono usufruire di servizi, chiamiamoli premium o comunque di qualità, visto che la banda è scarsa e comunque è uno spazio definito, questo vada a svantaggio e quindi poi di fatto discrimini tutto il resto del traffico. Torniamo al tema della discriminazione, dicendo che se la discriminazione è non consentire il passaggio, questo è inaccettabile e va perseguito. Però, come dire, facciamo l'ex post, no? Invece che dire ex ante con un processo alle intenzioni, allora tutti fermi. No, facciamo l'ex post, se qualcuno discrimina, ovviamente lo dobbiamo colpire e punire. La verità è che storicamente tutti i servizi premium hanno sussidiato i servizi basic, dalla prima classe in treno alla business class in aereo, e hanno attratto segmenti premium, e si chiamano premium perché producono redditività superiore, la quale a che cosa serve alle imprese? Guarda caso a investire in capacità. Quindi la verità storica dal punto di vista aziendalistico è che i servizi premium producono redditività più elevata, che a sua volta consente un maggiore investimento. Qual è l'effetto storicamente provato? Che i servizi premium aumentano gli investimenti e quindi aumentano la capacità produttiva, mentre come dire, quello che chiamo il comunismo di internet, in cui tutti devono viaggiare alla stessa maniera perché abbiamo tutti gli stessi diritti finali invece che le stesse opportunità iniziali. Ecco, questa cosa per me è profondamente illiberale, dico. Certamente il rischio c'è di qualche abuso, ma torniamo al ruolo del regolatore. Oggi il regolatore non deve imporre una neutralità obbligatoria top down. Oggi il regolatore deve garantire una non discriminazione e dopodiché sorvegliare che i servizi premium che dovranno nascere, e che ricordo, su telefonia mobile ci sono da sempre. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la neutralità della rete nel caso della telefonia mobile è una pura ipotesi, perché già oggi hanno gli operatori non soltanto la prassi ma pure il diritto di farlo, perché la Commissione Europea glielo ha riconosciuto. Quindi questo tema è un po' stucchevole dal mio punto di vista, perché è limitato sostanzialmente al traffico di rete fissa, quando la gran parte degli utilizzatori non riesce a distinguere se sta usando una rete cellulare di un operatore o una rete wifi quando per esempio è in casa, no? Quindi già oggi non si rende conto che sta usando alcuni servizi che sono soggetti a neutralità e altri che invece non lo sono. Quindi, secondo me, un chiarimento è importante, perché, e qui dico un ultimo pezzo importantissimo, invece una neutralità dei risultati impedisce imprenditorialità innovativa, in particolare europea. Se la neutralità va avanti ad essere imposta così, un po' come dico all'americana, in cui è un po' ideologica, sono gli europei che soffrono, perché mancano della massa critica necessaria per raggiungere il punto di sostenibilità economica tipico dei Facebook, dei Google, degli Amazon. E in effetti tutte le applicazioni di nicchia sviluppate in Europa che fine fanno? Se le comprano i grandi player americani per un tozzo di pane, magari pagandole bene, ma sempre per un tozzo di pane. Mentre è probabile, non è certo, ma un po' di pragmatismo serve in questo caso, è probabile che un modello basato sulla qualità del servizio consenta la sostenibilità economica di progetti di nicchia. Per cui se io voglio fare una radio HD, invece di fare radio 24 ore super hi-fi, voglio poterla fare a pagamento invece di avere il gracchiare che ogni tanto mi capita di ascoltare quando vi ascolto via internet. Ecco, devo poterla pagare e il mio operatore mi deve garantire che avrò una qualità d'ascolto eccellente. Questo consente un modello di business per cui anche il content provider, anche il giornalista, anche il service provider può beneficiare di questa capacità di pagamento. Altrimenti, con la network neutrality intesa in senso talebano, tutti devono vivere di pubblicità. Quello è un mercato limitato, quello è plafonato, quello è un asintoto che non può andare, e quello è un mercato peraltro concentratissimo, tant'è vero che i grandi player si portano la fetta del leone. Quindi la neutralità della rete, se è non discriminazione, va benissimo; se diventa impossibilità di differenziarsi, uccide imprenditorialità di nicchia. In questo scenario quelli che potrebbero beneficiarne di più sono gli operatori di telecomunicazioni? Certamente la torta del settore si allarga, perché andiamo a prendere un internet a pagamento che oggi di fatto non c'è, perché io compro solo una connessione in cui compro un best effort. Se invece andiamo a vendere qualità, andiamo a vendere differenziazione, andiamo a vendere segmentazione, quindi ragionevolmente aumenta la torta e aumenta la profittabilità. Quindi i primi ad approfittarne sono gli operatori telefonici, ma con un problema: fino adesso hanno goduto del fatto che tanto era una commodity e quindi i servizi che davano erano basici. Se vogliono vendere servizi premium, li devono fare, quindi devono ingegnarsi in termini di processi, di cultura e di organizzazione, che oggi non sempre hanno, a darli quei servizi che oggi si sono permessi il lusso di non dare. Quindi vero che hanno una opportunità gli operatori telefonici di allargare la torta del mercato, ma altrettanto vero che se non innovano e non differenziano, quel premium non lo prenderanno mai. In compenso, la fetta più interessante di questa quota di mercato più grande va invece ai content provider di nicchia, che possono diventare differenziati. Quindi possono arrivare dai grandi operatori telefonici, chiedere l'ospitalità o di essere messi in bundle, cioè in un pacchetto d'offerta, così quando io prendo un abbonamento, un servizio, posso comprare o un pay per use o con una subscription, servizi d'eccellenza che mi vengono garantiti. Tutto questo sempre in presenza di una legge costituzionale di Internet, che è: nessuno deve discriminare il passaggio. Certo, il best effort ovviamente va garantito, comunque lo strato di best effort, senza dubbio. Gli operatori a questo punto avranno almeno una gara all'innovazione, altrimenti la gara è stata in questi anni alla guerra dei prezzi, perché se siamo tutti costretti a vendere la stessa commodity, tanto vale prendere quella a minor costo, con in più l'effetto di inganno sul consumatore. Siccome il best effort non stabilisce il livello minimo, l'effetto che tu hai è quello che tutti viaggiano adesso più lentamente, perché non sapendo distinguere fra un servizio di qualità e un altro, l'effetto finale è che la moneta cattiva schiaccia sempre la moneta buona. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, riprenderemo tra poco, magari diciamo una parola anche sul best effort, che è una parola che i tecnici, gli esperti utilizzano molto, molto importante e fa parte della Internet come la conosciamo oggi, ma insomma magari va spiegato qualche dettaglio. Riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi: 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter cercando Enrico Pagliarini oppure 2024. Stiamo parlando di neutralità della rete. Buona parte del dibattito si mette a confronto, si basa sul confronto tra l'attuale Internet basata sul concetto di best effort, cioè la rete Internet non discrimina nessun contenuto, tutti transitano alla stessa velocità, ma la rete dice: beh, io faccio il possibile per consegnarti questo contenuto che tu mi hai richiesto, ma non ti do delle garanzie. A volte in effetti noi clicchiamo su un link, cerchiamo una pagina oppure vogliamo vedere un video e non sempre il servizio è garantito. Poi dipende anche dalle zone dove ci troviamo, dalla qualità dei collegamenti, ma questo è un altro capitolo, diciamo. Il capitolo di quanta banda abbiamo a disposizione è un altro, e lo dedichiamo ad un'altra puntata. Qua si tratta proprio di come la rete gestisce il traffico. Allora, alcuni dicono: no, invece bisogna creare servizi a pagamento che offrono qualità di servizio, che quindi garantiscono che certe cose arrivino. Ma quelli che sono più timorosi dicono: ma attenzione, perché se creiamo delle corsie preferenziali, le altre corsie potrebbero essere discriminate. È un complesso argomento, ma molto importante, perché poi in definitiva riguarda l'esperienza Internet e anche il contratto Internet che noi abbiamo nelle nostre case. E quindi, se tra qualche anno per fare certe cose dovremo pagare, beh, sappiate che tutto deriva da questo dibattito. Il timore di alcuni è anche che, visto che nei prossimi anni ci avviciniamo ad un consolidamento dell'industria delle telecomunicazioni, se rimangono pochi operatori, beh, questi operatori potrebbero ridurre la concorrenza e quindi alcuni servizi di fatto diventeranno a pagamento per poter essere utilizzati, cose che invece noi oggi utilizziamo comprese nel nostro abbonamento. telefonico nel nostro abbonamento, diciamo, a internet, alla a DSL o ai più fortunati alla fibra ottica. Il professore Carlo Alberto Carnevale Maffè dell'Università Bocconi. Il best effort è la traduzione elegante, forbita, del dire faccio quello che posso, ma non, quindi non dare nessuna garanzia di servizio. Se devo mandare un bit di un'analisi sanitaria o di una transazione finanziaria, mi spiace, non fai quello che puoi, fai quello che abbiamo concordato, per quale ti pago. Quindi è evidente che nel caso dei servizi mission critical o per la pubblica amministrazione o che garantiscono la sicurezza, best effort già oggi, voglio dire, best effort non è sufficiente. Passare dal best effort, che è l'internet che conosciamo oggi, al concetto di quality of service, cioè mi garantisci un livello di servizio e me lo dai e io te lo pago se e solo se quel servizio è verificato, sempre a condizione che non discrimini i diritti di passaggio, non la velocità, ovviamente, diciamo, dell'internet generalista. Ecco, un po' il principio è questo. Noi stiamo sostanzialmente concependo internet come se fosse obbligatoriamente un internet free to air come la televisione, in cui sono vietati i canali a pagamento, i canali premium, con l'idea che siccome lo spettro è limitato Sky non deve esistere. Insomma, abbiamo ben visto invece che la intelligente suddivisione delle risorse limitate spettrali produce innovazione, investimento, produce segmentazione del mercato e produce soprattutto più libertà, non meno libertà. Ripeto, il paradosso economico della network neutrality è che vincono i monopolisti naturali, cioè vincono gli Stati Uniti e la Cina, perché arrivano su un mercato tipicamente oligopolistico come quello della pubblicità con le loro masse critiche e spiazzano gli europei, che invece al massimo arrivano a pochi milioni di utenti. Quindi l'eccellenza europea finisce per essere fagocitata dagli americani. Va tutto bene, però almeno diciamocelo. Quindi togliamo anche il mito che network neutrality vuol dire essenzialmente assoluta libertà di innovazione. Sì, magari le idee possono andare, ma le imprese sono una cosa diversa dalle idee, no? Le imprese sono idee che diventano sostenibili economicamente. Il modello di quality of service deve dare cittadinanza legittima, controllata, verificata, supervisionata dalle autorità, senza dubbio, ma deve dare cittadinanza legittima ai progetti imprenditoriali che si basano su servizi di nicchia, così facendo anche l'Europa, anche l'Italia, anche le start-up italiane, che mai raggiungeranno la capacità di massa critica dei modelli americani. Abbiamo voglia di fare la California delle start-up, i venture capital, c'è un problema di domanda. Se la domanda non è abbastanza, non ci arriveremo mai, mentre gli italiani sono eccellenti al mondo e fanno roba di nicchia, no? Questo non è un paese da produzione di massa, neanche nel caso del software. Questo non è un paese da produzione di servizi standard mondiali. Noi siamo il paese della varianza, della varietà. Benissimo, la qualità del servizio consente agli imprenditori italiani nel settore digitale di andarsi a prendere quelle nicchie di eccellenza che vogliono la qualità, e sulla qualità gli italiani hanno una reputazione che altri non possono vantare. Ultima domanda, a parte il gioco delle prove, proprio sulla domanda del mercato. Siamo sicuri che in un internet che si è abituato a pagare tutto con la pubblicità ci sia chi è disposto a pagare per questi servizi di qualità? No, non siamo sicuri, ma non siamo neanche sicuri del contrario, ok? In ogni caso il problema qua è che se tutte le strade pubbliche sono ferme, qualcuno che vuole pagare per andare all'autostrada probabilmente lo si trova, vero? È esattamente la scommessa che deve fare un'economia aperta, non predeterminare ex ante per qualche strana intuizione regolatoria che è giusto che sia così, ma consentire che sia il mercato a manifestarsi. Oggi la verità è che non lo può fare, perché la domanda, perché semplicemente l'offerta non è in grado di essere configurata come tale. Nessuno sa quanti servizi premium e se i servizi premium avranno successo, ma la verità è che give quality a chance, se posso dire, diamo alla qualità una possibilità di essere comprata. Poi sai, c'è qualità e qualità, no? Le mense aziendali nell'Unione Sovietica non avevano tutta questa differenziazione, perché tutto sommato se ti servono 2000 calorie lo posso decidere io al Ministero della Salute cosa ti serve, e forse non è andata esattamente così, no? Forse c'è una domanda di qualità che sempre appunto divisa in nicchie, ovviamente, però ancora una volta Quanto deve essere grande questa domanda perché sia economicamente sostenibile? Lo sappiamo tu ed io, lo stabilisce il regolatore o deve stabilirlo il mercato? No? Se io trovo 10.000 appassionati di fotografia che vogliono un Instagram HD super definito, perché non devono poterlo comprare a qualche euro al mese? Oggi devono andare alla stessa velocità e definizione di 100 milioni di persone, quindi accontentarsi della mediocrità imposta dal modello. Ne trovo 100.000 che vogliono pagare 10 euro, e perché mai? Se la mia struttura economica aziendale me lo consente, ecco un nuovo punto d'equilibrio. Signori, è quella mano invisibile del mercato digitale che veramente ha bisogno di essere liberata per restituire in particolare all'Italia e all'Europa spazi di innovazione, altrimenti saremo costretti a inseguire l'America su un mercato pubblicitario che strutturalmente in Europa è frammentato, arretrato, e che non ci consentirà mai di colmare questo gap. E non è una questione né di capitali né di linguaggio, è una questione di natura strutturale economica della domanda. Allora, liberiamoci da questo falso pregiudizio ideologico. Nessuno qua vuole fare, come dire, quello che impedisce la libera espressione. L'esatto contrario. Qui siamo qua a sollevare un punto critico, pragmatico, non ideologico, non ex ante, no? Di maggiore libertà, maggiore opportunità, sempre sotto sorveglianza dell'autorità, perché se il mercato non rispetta le regole e poi discrimina, allora va punito, ok? Ma in questo contesto diamo spazio, perché in questa maniera l'Europa non recupera mai il gap con gli Stati Uniti, e è impossibile che lo recuperi con la Cina, che sta ovviamente emergendo, e a quel punto i numeri della Cina sono tali da competere alla grande con gli Stati Uniti e solo con gli Stati Uniti. Ecco, se vogliamo dare all'Europa una chance, questa sì, di competere sulla qualità, e i beni europei hanno una tradizione di qualità straordinaria, le eccellenze europee ce le hanno, ecco, a noi la qualità del servizio in vendita su internet e la speranza che qualcuno ce la compri, almeno lasciatecela e andiamo a vedere se c'è. Se non ci sarà, ne ridiscuteremo, ma impedirlo ex ante per un pregiudizio ideologico, secondo me, è grave e stupido. Proviamoci tutti insieme, con intelligenza, con garbo, con attenzione, invece che cambiare idea come ha fatto la Commissione Europea dalla sera alla mattina. Ha fatto 2 anni di consultazioni pubbliche sulla netto neutralità che sono approdate sostanzialmente a nulla. Improvvisamente, secondo me anche pragmaticamente, dice che forse la qualità del servizio invece merita spazio. Secondo me questo cambio di atteggiamento va giustificato, va fondato empiricamente, va spiegato agli imprenditori europei, non va fatto come un favore agli operatori, altrimenti viene percepito come un effetto lobbistico. Ecco, dobbiamo stare lontani dal rischio lobbistico e dire che la qualità del servizio è un bene pubblico ed è una cosa che interessa alle migliaia di nuovi imprenditori. Sì, ovviamente interessa anche agli operatori telefonici, che hanno più flessibilità, ma la mia preoccupazione non va certamente a loro, va a garantire maggiore imprenditorialità in Italia e in Europa. E questa era la voce del professor Carlo Alberto Carnevale Maffei, docente di strategia aziendale all'Università Bocconi di Milano. Un dibattito molto importante e interessante. Accettiamo naturalmente consigli, email, messaggi e anche diverse opinioni. Nelle prossime settimane vi offriremo sicuramente il proseguo di questo dibattito. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco proseguiamo e parliamo del mercato dei media e dell'intrattenimento in Italia. 2024. L'ultima parte di 2024 è dedicata al mercato dei media e dell'intrattenimento in Italia. Che cosa succede in un mercato che noi tutti i giorni utilizziamo? Beh, anche noi facciamo parte di questo mercato, anche Radio 24, quotidiani, radio, televisioni, internet naturalmente, editoria in generale, ma soprattutto negli ultimi anni sempre più videogiochi ad esempio, o scommesse. Insomma, un mondo che si sta trasformando molto velocemente, che è molto complicato. Ha fatto un'analisi descrivendo anche alcuni trend PwC. Andrea Samaia è il responsabile del consulting, del settore consulting di PwC in Italia. Allora, fermo restando che purtroppo il momento congiunturale economico influenza andamenti e trend, ovviamente anche nell'intrattenimento. Tutti noi nella vita quotidiana abbiamo probabilmente tagliato dei consumi di intrattenimento. Quindi al di là della tecnologia. Quindi questo è al di là un po' della tecnologia. Però la lettura complessiva dei segmenti è una lettura comunque di incremento, infatti noi prevediamo un incremento medio annuale del 3,5% da qua al 2017. Detto questo, le velocità di trasformazione, di evoluzione e l'importanza del digitale evolve in maniera diversa a seconda dei segmenti. Quello che esce in maniera abbastanza chiara è che tutti i segmenti fondamentalmente hanno una crescita complessiva, ad eccezione di tre segmenti che sono quelli del publishing, sia la parte quotidiani che la parte periodici, nonché la parte dei libri. Allora, questo è dovuto non tanto a un andamento, tra virgolette, di settore negativo, quanto proprio a una modifica fondamentale e strutturale di come le persone accedono e leggono le notizie, e quindi sta proprio cambiando la modalità di consumo e cambiando la dimensione del mercato di riferimento. Quindi questo lo riportiamo ai dati. Voi ad esempio tra il 2013 e il 2017 stimate che il mercato di internet cresca di oltre il 10%, quindi voi dite sì, è vero, l'editoria scende, ma una parte di quel calo è compreso in quel più 10% di internet. Assolutamente sì, e su questo forse vale la pena di spendere due parole in più e dire quali sono i driver fondamentali di questa crescita nell'ambito del digitale. Quello che noi avevamo previsto è un incremento della diffusione della banda larga che porterà la stessa come penetrazione rispetto alla popolazione attiva o che può essere effettivamente una consumatrice di banda larga, arriverà fino al 65%, e parallelamente la penetrazione delle smart device, e con smart device includo sia i tablet che gli smartphone, arriverà addirittura all'85%. Penso che questo al 2017, sulla popolazione, come sulla popolazione attiva. Sempre diciamo diciamola attiva, perché ovviamente non sono considerate, perché una percentuale piuttosto importante, perché il 65% di questa popolazione, appunto escludendo bambini o persone anziane o che non possono utilizzare questi strumenti, ci fa finalmente capire che innanzitutto sta veramente arrivando nelle mani di tutti gli italiani la banda larga e la possibilità di accedere a dei contenuti in banda larga. Quando dite banda larga intendete, comprendete anche la mobilità? Comprendiamo, assolutamente sì, anzi direi che come quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista per la diffusione della banda larga è quasi altrettanto importante la banda larga in mobilità della banda larga in fibra, quindi quella classica fissa. Quindi in fibra per i fortunati. In fibra per i fortunati, diciamo, comunque, insomma, o ADSL. Quindi questo 65% è fatto in buona parte da gente che ha uno smartphone o un tablet che si collega al 3G o al 4G in prospettiva. Assolutamente, c'è sicuramente una componente significativa, quindi è un po' la combinazione dei due fenomeni. Questo però, qual è la principale riflessione che si fa osservando questo fenomeno, dico, strutturale, no? Perché vuol dire abilitare potenzialmente una larga parte della popolazione a poter fruire di contenuti in mobilità. Vuol dire che le vecchie abitudini di consumo, che io dico relegavano, tra virgolette, non so, il ruolo della televisione, classicamente come momento di consumo della famiglia, era, a parte il weekend, nelle ore serali, forse qualcosa la mattina velocemente prima di uscire. E oggi come oggi invece io esco da casa e posso continuare ad accedere a dei contenuti perché ho la banda larga da una parte e ho una smart device dall'altra. Quindi a disposizione la banda larga, la smart device continuo a utilizzare questi contenuti per tutto l'arco della giornata. Potenzialmente sì, e questo vuol dire che comunque in spostamento, magari in metropolitana, piuttosto che in tram, piuttosto che sì, potrò accedere. Questo vuol dire che modifica anche i contenuti che richiedo, perché il vecchi concetti di prime time prima serata non sto dicendo che scompare, perché oggi come oggi è un fenomeno assolutamente ancora in startup, ma sicuramente ho l'opportunità di cogliere audience diverse da quelle storiche in orari che normalmente consideravo orari non utili. Tutto questo fenomeno, come viene monetizzato? Solo con la pubblicità? Perché una delle cose che si dice spesso è in internet buona parte delle cose vengono ripagate dalla pubblicità, quindi la moneta di internet, intendo internet poi sia certo. sul computer che poi su smartphone e tablet. Allora, due diverse, tra virgolette, complementari risposte. Allora, da una parte bisogna ricordarsi che noi tendiamo a identificare internet e il ritorno dal punto di vista economico di internet fondamentalmente dalla pubblicità. Già oggi questo non è vero. Quando parlavamo prima di banda larga e di smart device, vuol dire per gli operatori di telecomunicazioni un boom dal punto di vista dei dati che vengono trasmessi e consumati dai singoli consumatori veramente significativi. Poi sopra dobbiamo ricordarci che di fianco alla pubblicità, quando io ho dei ragazzi che giocano usando la smart device, quindi fanno gaming, anche quello ovviamente è un consumo. Quando ho qualcuno che legge un libro, non è pubblicità, però se leggo il libro su una device, che può essere Kindle, che può essere insomma, un tablet in generale, o comunque un reader in generale, ancora una volta quella è un'altra parte di mercato. Quindi sono tutti fenomeni in evoluzione costante e comunque stanno creando le loro parti di mercato e i loro ricavi correlati. Però se guardiamo, diciamo, a internet in generale, ancora oggi, e poi le chiedo, al 2017 buona parte dei ricavi arrivano dalla pubblicità? Dunque, una parte sicuramente significativa arriva dalla pubblicità, ma ancora una volta, non voglio ripetermi, concettualmente ci sono tante aziende che hanno modelli di business che sono ormai abilitati dalla piattaforma tecnologica, diciamo in senso più ampio del termine, di internet. Ci sono aziende come Yux, certo, non dovevo fare il nome, ma lo sto parlando proprio a titolo esemplificativo, che hanno fatto il loro core business, quindi sono nativi digitali e dove la pubblicità onestamente... Certo, però quello non è entertainment and media. Quello non è entertainment and media, però è un'abilitazione un po' a tutto tondo, perché comunque crea audience, crea interesse, crea consumo, crea navigazione. Sì, questo è un ulteriore segnale, diciamo, gli addetti ai lavori li hanno già colti questi segnali, ma... di settori diversi che in qualche modo si integrano e diventano, si integrano. Cioè io faccio e-commerce, ma in realtà potrei anche far parte del mondo dell'intrattenimento. Assolutamente. Proprio perché facevo una riflessione qualche giorno fa. C'è una persona che conosco che dice spesso: tutti sono potenzialmente editori. Se tu vendi barbecue, potresti anche costruire delle storie sul barbecue e diventi editore, quindi fai parte del mondo dell'intrattenimento e dei media. Esattamente, bravissimo. Proprio pochi giorni fa, in una discussione con un cliente, quello che è uscito chiaramente come un potenziale innovativo e come un modello di business innovativo, e qua stavamo parlando di un editore, è proprio quello di associare con partnership ad hoc di progetto dei modelli di business innovativi. Cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio. Adesso ho dei titoli di programmi conosciuti, ma non è ancora una volta un riferimento a un editore piuttosto che un altro operatore. Ogni riferimento è puramente casuale. È puramente casuale, esattamente. Film. Però nel momento in cui io ho un programma che si chiama MasterChef, nel momento che io possiedo come contenuti dei libri di ricette e nel momento in cui chiamo un'azienda che vende prodotti magari biologici, che in questo momento sappiamo, no, vegani, non vegani, eccetera, particolarmente di moda, posso montare un conto economico specifico di progetto o di iniziativa, chiamiamola iniziativa speciale, che alla fine può generare... Ovviamente qua stiamo parlando di un revenue, qui devo usare una parola inglese, revenue sharing, quindi sono ricavi che poi ovviamente la cui marginalità andrà condivisi, cioè, sì. tra i vari partner che associano l'iniziativa. Ecco, a questo punto è ancora intrattenimento? Io dico di sì, perché comunque i contenuti, no, di MasterChef e delle ricette sono importanti, però associa un e-commerce di prodotti biologici. Certo, diciamo che il concetto conosciamo ancora oggi, ma che conoscevamo nel mondo dell'editoria tradizionale, degli allegati, qui si esprime alla massima potenza e la fantasia ci offrirà. Assolutamente, se noi pensiamo al fenomeno del product placement nelle trasmissioni, il product placement è lo spiego per chiarezza degli ascoltatori, o meglio degli non addetti ai lavori, il product placement è quando io all'interno della trasmissione utilizzo degli oggetti. Sì, magari certo, in cucina metto il forno di una tal marca piuttosto che si vede il pacchetto delle sigarette che sarebbero anche vietate da tal marca, bene o male quelli comunque sono spazi che generano modelli di business e quindi ci sono dietro degli accordi ovviamente tra il produttore e chi poi trasmette. Ci contenuto. Sono due cose interessanti. Voi stimate una crescita molto forte sia delle scommesse sia del gioco e del videogioco in modo particolare. Allora sì, diciamo che delle scommesse, io dico ahimè, è un fenomeno purtroppo che è direttamente anche correlato sia all'andamento congiunturale. Noi sappiamo che purtroppo nei momenti in cui l'economia è negativa molte persone si avvicinano al gioco d'azzardo nella speranza, quindi diciamo che è un argomento che onestamente mi rattrista un po', no? Sì, letto, certo. Da questo punto di vista. Però questo deve essere associato invece al fatto che dicevamo prima, cioè i tablet e le smart device permettono di continuare a giocare, questo per i ragazzi, piuttosto che a scommettere in mobilità. Quindi ancora una volta è cambiato il momento di consumo e questo genera una domanda aggiuntiva. Perché i ragazzi ovviamente dicono compro questo gioco e lo chiedono più fortemente ai propri genitori perché l'occasione di consumo o la voglia di consumo aumenta, proprio come disponibilità e fruibilità. Certo, idem forse per vari motivi per il videogioco. Idem assolutamente per il videogioco. Che continua nonostante tutto, perché il videogioco è diciamo in crescita da parecchi anni, poi ci sono stati alcuni anni un po' di crisi, però voi quindi confermate ancora una crescita. Confermiamo ancora una crescita proprio perché aumenta la quantità potenziale del consumo, quindi qui proprio sta aumentando non tanto il consumatore, ma il tempo e il momento in cui il consumatore può consumare. Ci sono, diciamo, visto tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, ci sono delle forti differenze con altri paesi del mondo o i trend generali sono simili? Ma allora, io direi che i trend veramente ad alto livello sono simili, però le velocità dei paesi sono diverse. Sì. Alcune fondanti sono la parte infrastrutturale che richiede comunque, a parte gli investimenti dal punto di vista finanziario, che in questo momento sicuramente non sono particolarmente favoriti, comunque richiede tanto tempo, no? Perché comunque quando io dico devo cablare un paese, adesso lo dico, quindi stiamo dicendo un fenomeno di 5-7-10 anni. Certo che se ci spostiamo poi dal punto di vista culturale, per esempio l'Italia, io dico da sempre, da quando ci si è affacciati al mondo dei telefoni senza fili, chiamiamoli in questa maniera, all'inizio, perché era questo, noi siamo stati un fenomeno incredibile sin da subito. Ricordiamo che gli SMS sono stati inventati in Italia. Però oggi forse ci hanno raggiunto un po' tutti. Ci hanno raggiunto perché ovviamente comunque quella era una tendenza, ma se noi guardiamo la penetrazione degli smartphone in Italia, l'Italia è ancora un paese che comunque si innamora ed è particolarmente attento alle nuove tecnologie. E sulle nuove tecnologie devo dire che ci sono dei cambiamenti importanti in corso, perché se guardiamo quello che è successo recentemente tra Microsoft e Nokia, dove Microsoft, comprando la parte delle device mobili di Nokia, si è sicuramente dichiarata strategicamente estremamente interessante al mercato. A quale mercato? Al mercato dei telefoni? Ovviamente no, è al mercato dei servizi / dei servizi a valore aggiunto che pensa di poter veicolare via mobilità. E quindi avvicinare, entrare in competizione vera e diretta con quello che ad oggi probabilmente è sicuramente il stato il primo che è Apple, che ha, io dico, ha inventato, perché certo, comunque bisogna riconoscere il mercato settore, delle applicazioni. Certo. Forse non inventato, ma diciamo inventato la nuova era delle applicazioni. Inventato, come al solito, come però spesso, esatto, gli inventori Apple rimangono nascosti e diventano famosi, esatto, diffondono. Nonostante tutto, uno potrebbe pensare che come valore il mondo digitale sia già oggi fortissimo. Voi prevedete, e da un, da un certo punto di vista anche io mi stupisco, che al 2017 il settore digitale, la spesa generale del digitale sia nemmeno un terzo, 31%. Esattamente. Allora, perché le cose a cambiare ci mettono del tempo. La verità, secondo me, è un pochino diversa. Nel senso che il tradizionale, che è stato visto forse all'inizio come veramente in rapida distruzione, sì, quindi la carta, la TV tradizionale, la radio, eccetera. Quello che sta invece emergendo in maniera chiara, ovviamente con velocità diverse e dimensionamenti diversi settore per settore, è che ci sarà la verità è che ci sarà un bilanciamento tra il mondo digitale e il mondo tradizionale. Mi spiego meglio. Cioè, oggi, domani ci sarà ancora l'editore e il broadcaster, quindi chi fa televisione e chi fa pubblicazione di contenuti, o si mischieranno e si diventeranno quelle, diciamo, delle media company. Perché la verità è che i prodotti che noi oggi vediamo degli editori spesso stanno diventando dei prodotti ibridi. Quindi io leggo qualcosa sul computer o sul tablet, però ho una fotografia che però se clicco diventa streaming video. Cos'è quello? Oppure certo, viceversa, ho una trasmissione che qualcuno riprende, posta su Facebook, quindi su un social network, e da lì parte una discussione intorno a quella trasmissione video. Quello è di chi? È dell'editore originale o è dell'utente che l'ha messa a disposizione e ha generato dei nuovi contenuti, dei nuovi commenti? Quindi sì, per quello che dicevo all'inizio, che questo mondo diventa effettivamente molto, sempre più complicato. È un mondo assolutamente più complicato, assolutamente frammentato, ma che sta trovando equilibri tra i mondi tradizionali e i mondi digitali. Quindi le velocità di penetrazione del digitale, seppur significativi e in alcuni casi hanno veramente messo in discussione in modo strutturale certi settori. Lo dicevamo prima, la parte editoriale è sicuramente quella più messa in discussione come confini, come perimetro, come dimensionamento di mercato e come modalità di consumo. Però se guardiamo nella televisione, prima parlavamo dei tablet, parlavamo della mobilità, però io la televisione la posso continuare a vedere anche come facevo una volta e comunque rimane il mezzo primario di comunicazione. E quindi quello è un mondo che si sta ridimensionando, in cui la propria audience di riferimento si sta frammentando, perché consumo partendo in televisione, passando in mezzo al momento di consumo di mobilità e finendo quando sono in ufficio durante la pausa pranzo. Sì. Però è un equilibrio tra i vari mezzi, non è la cannibalizzazione o la distruzione del mezzo storico verso il digitale. Sì. Le faccio una domanda sugli editori, chiamiamoli così, o comunque sui produttori di contenuti, gli erogatori di contenuti italiani. Molti saranno anche vostri clienti, però guardando al mercato in generale, lei come vede la capacità di innovazione? Perché molto spesso noi commentiamo novità che arrivano da altri paesi e magari noi o le adottiamo oppure siamo molto lenti ad adottare, insomma, mi pare, poi magari mi sbaglio, che insomma, dal punto di vista innovativo siamo molto lenti. Come stanno le cose? Allora, qui c'è proprio un punto, io direi, focale della diffusione e dell'innovazione in Italia. Allora, noi partiamo sicuramente da una situazione in cui i grandi operatori storici, nei vari segmenti, hanno, io dico purtroppo, come tutte le aziende, delle resistenze al cambiamento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i modelli di business che hanno imperato e hanno tenuto per decenni nel settore televisivo, nel settore editoriale, sono stati messi in discussione del più o meno profonda. E quindi generano automaticamente una necessità di affiancare, diciamo come minimo, a modelli di business tradizionali, quelli più innovativi. Allora, ci sono due componenti però. Uno è la creatività, qualcuno che pensa come sfruttare le nuove potenzialità che il mercato e la tecnologia fondante su questo mercato offre. E già qui non semplice, perché comprendere dal punto di vista del business la potenzialità di una tecnologia, qui non stiamo parlando ovviamente di internet, stiamo parlando di tecnologie molto più specifiche, non è così immediata, non è così semplice, perché c'è un'evoluzione che ha una velocità che fa paura, quindi è una continua evoluzione, ci vuole una continua comprensione e ci vuole una capacità di prevedere le tecnologie e i modelli che questi abilitano di business e essere in grado di implementarli nella propria azienda, che però è un'azienda spesso e volentieri ancorata ai modelli di business storici, dove vediamo che ancora nel 2017 il 70%, visto che diciamo il digitale è prima il 31%, no? Quindi circa il 70% è ancora comunque su mezzi tradizionali. Allora, come al solito, quindi siamo molto lenti. C'è una lentezza e una rigidità. Però quello che io vedo, e dico lo vedo con piacere, è che il settore forse editoriale, che è quello che da più tempo è in sofferenza, diciamo, dal punto di vista degli operatori tradizionali. Sì, sì, almeno 4-5 anni. Almeno 4-5 anni, in questo momento sta cambiando le proprie organizzazioni interne. Perché dico che è importante questo? Perché è importante la flessibilità e la capacità di adattamento dell'organizzazione, che deve rispecchiare il proprio approccio al mercato. E siccome l'approccio al mercato cambia, è cambiato, cambia e cambierà, perché di modelli di business stabili per 20-30 anni non è più ipotizzabile, è troppo articolato e frammentato il mondo media per poter pensare a una cosa di questo genere. Questo vuol dire che le iniziative speciali di cui facevo cenno prima devono diventare nell'ufficio la quotidianità e quindi l'implementazione di nuove strategie, l'attenzione all'evoluzione delle tecnologie, eccetera, eccetera, devono essere inserite nella routine quotidiana. Se le aziende, come stanno secondo me iniziando a fare, abilitano le proprie organizzazioni a questo tipo di flessibilità, allora la potenzialità del mondo del digitale, delle nuove tecnologie, delle evoluzioni e soprattutto della sopravvivenza rispetto ai nativi digitali, perché le aziende native digitali ovviamente hanno fatto di questo paradigma di cui stavo dicendo prima io il loro mondo sin dal giorno uno, quindi certo, non hanno il problema della resistenza al cambiamento, ma hanno un'abitudine al cambiamento nativa. Sì, il problema è che a volte queste aziende non sono italiane e quindi la globalizzazione, consumatori, diciamo, di prodotti fatti in altri è paesi. Vero, è vero. Io ringrazio Andrea Samaia per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024, questa è la versione podcast della nostra trasmissione, vi abbiamo proposto le nostre interviste in versione integrale, soprattutto questa con Andrea Samaia, responsabile dell'area consulting di PwC in Italia. Abbiamo proprio estesa molto più che rispetto alla trasmissione che è andata in onda in radio, in FM, in streaming e anche in digital radio. Parleremo presto del digital radio, ovvero del DAB, che si sta diffondendo soprattutto nel nord Italia, nell'area metropolitana di Roma e lungo alcune delle principali dorsali autostradali. Bene, tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver downloadato il nostro programma, scriveteci per suggerimenti o qualsiasi altra cosa al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook oppure il nostro account Twitter per dialogare durante la settimana, ma a volte ci sono alcune cose che per essere espresse devono, insomma, hanno bisogno di qualche riga in più. Come sempre vi invito a scriverci per dirci, spiegarci, raccontarci come utilizzate il podcast, quindi quando ci ascoltate. Continuano a scriverci molti nostri ascoltatori, c'è chi scrive e ci dice: io ascolto mentre corro. Sono molti, devo dire che quelli che corrono ascoltano 2024, oppure molti lo fanno in automobile o anche in treno mentre si spostano dalla casa al lavoro. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre o su Radio 24, oppure, che è un'altra modalità per essere su Radio 24, anche nella versione podcast. Appuntamento tra 7 giorni. 2024. 2024. 2024.